ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. In primo piano. Le 7:34 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vediamo insieme le pagine, le prime pagine dei quotidiani di oggi nella prossima mezz'ora. Lo facciamo a partire dal Sole 24 Ore, come sempre il titolo di apertura, la UE, aiuti del recovery nella manovra. Legge di bilancio, lettera di Dombrovskis e Gentiloni ai governi, tenete conto del piano delle riforme. Confermato che la deroga al patto di stabilità continuerà anche nel 2021. Centropagina. La fotonotizia ci riporta al confronto sempre più duro tra Stati Uniti e Cina. Trump all'attacco, alta tensione Trump-Xi all'assemblea dell'ONU. L'attacco del presidente Trump alla Cina durante il suo intervento all'assemblea per i 75 anni dell'ONU, scrive il Sole 24 Ore, ed è l'attacco consueto che ha ripetuto più volte nell'ultimo periodo. La Cina ha infettato il mondo, ha detto riferendosi al coronavirus. Il mondo non deve cadere nella trappola dello scontro di civilizzazioni, dovrebbe dire no all'unilateralismo e al protezionismo, gli ha risposto il presidente cinese. E poi tutti gli approfondimenti curati da Riccardo Barlam nelle pagine interne. Si ricorda anche la proposta di Bruxelles sui migranti. La riforma introduce l'obbligo di aiuto tra i paesi della Unione Europea. Secondo la proposta comunitaria, un paese membro potrà attivare in caso di crisi migratoria una richiesta di maggiore solidarietà e Bruxelles potrà imporre ai partner di aiutare i paesi in difficoltà nella gestione dei flussi. Con il Sole 24 Ore, sul quale torniamo poi per approfondimenti se avremo sufficiente tempo, ma voglio dirvi subito che con il Sole 24 Ore oggi c'è sia un approfondimento dedicato al DL Semplificazioni con le novità per gli appalti, l'edilizia, le imprese, gli studi, sia un nuovo volume, proprio un libro, Fisco, le tasse del futuro, questo è il suo titolo, con contributi come quelli di Vincenzo Visco, Giovanni Tria, Giulio Tremonti, Franco Gallo, docenti universitari, insomma professionisti di questo settore che troverete in edicola da oggi separatamente, quindi va acquistato separatamente in edicola al prezzo di 12,90 euro, così sono riuscita a darvi anche questa precisa e puntuale indicazione sul costo di questo volume che, ricordo, appunto si intitola Fisco, le tasse del futuro, il cantiere fiscale nelle analisi del Sole 24 Ore. Corriere della Sera, tema di apertura, i temi sono piuttosto vari oggi, ciascuno ha scelto il proprio taglio. L'apertura del Corriere della Sera è dedicata al tampone per chi rientra a scuola dopo una malattia riconducibile con sintomatologia simile a quella del Covid, perlomeno. Il test è previsto per gli studenti positivi o con sintomi da Covid. La Svizzera dice intanto in quarantena chi arriva dalla Liguria e il governatore Toti protesta. Ci ricorda poi il Corriere il numero dei contagi, 1912, quelli registrati ieri positivi, il dato più alto dalla fine del blocco, l'indice R-Con-T a 0,95, la situazione in generale peggiora. Dopo una assenza da scuola dovuta a malattia sarà obbligatorio sottoporsi al tampone. Vi leggo perché la questione riguarda moltissime famiglie, qualche dettaglio in più. Studenti, professori e personale scolastico che vengono inviati a fare il tampone per sospetto Covid hanno la priorità sugli altri per l'esecuzione dell'esame. Così scrive il Ministero della Salute in un chiarimento sugli attestati di guarigione per gli alunni o gli operatori che hanno sintomi compatibili con il virus. Compatibili. La circolare serve a ribadire che in caso di sintomi appunto compatibili con il Covid, febbre, tosse secca, perdita del gusto, i pediatri e i medici di famiglia devono intervenire tempestivamente prescrivendo il tampone. Se è positivo, il paziente dovrà seguire le indicazioni dei protocolli delle ASL e potrà tornare in classe dopo due tamponi negativi eseguiti nel giro di 24 ore con l'attestazione di guarigione. Se il tampone è negativo, sarà il medico medico a valutare l'opportunità di un secondo tampone. Quindi qua già si dà un chiarimento in più. Una volta guarito potrà tornare a scuola. Certo è che la questione della gestione dei casi di Covid comincia a diventare cruciale, così appunto ci ricorda il Corriere della Sera in un articolo di Gianna Fregonara. E proprio sarà così, perché se i numeri aumentano, anche solo delle influenze stagionali, certo di tamponi da fare processare saranno sempre di più. Repubblica sceglie invece un'apertura totalmente diversa, sfida al Papa in Vaticano. Inchiesta sui fondi scomparsi, il cardinale Becciu, dopo la rimozione dall'incarico, attacca Francesco. Per lui sono pronto a morire, ma su di me ha sbagliato, spero che non si faccia manipolare. E poi gli approfondimenti di Repubblica, così monsignori e banchieri svuotavano le casse di San Pietro. Repubblica dedica addirittura 3 pagine poi nelle pagine interne a questa questione. Becciu non si piega al Papa, io innocente, lui manipolato, uno degli articoli. Poi c'è la resistenza, gli oppositori e gli amici caduti in disgrazia, la solitudine di Francesco. Pane, carità e appalti, un altro titolo, e poi gli approfondimenti che riportano all'Espresso la rete dei finanzieri vicini al porporato svelata da un pentito della segreteria. Ne scrive Massimiliano Coccia, appunto l'invito finale appunto a vedere sull'inchiesta che uscirà sull'Espresso domani. Andiamo alla Stampa, scende la CIG, l'Italia prova a risalire. Questa è l'apertura, ad agosto la cassa integrazione si dimezza, ancora in 30.000 attendono l'assegno, sbloccate opere per 45 miliardi. La CIG scende, leggiamo, e l'Italia prova a ripartire, ad agosto la cassa integrazione si dimezza, al nord calano le richieste, meno 75% rispetto ai mesi del lockdown. Il presidente dell'INPS, Tridico, dice senza assegno in 30.000. Sbloccate opere per 45 miliardi e pronta la nomina di 30 commissari per fare partire i lavori. Al centro pagina. A Parigi torna l'incubo islamista, 2 feriti, catturati gli autori, questa è la fotonotizia 5 anni dopo Charlie Hebdo. La pandemia scatena i femminicidi, riporta in breve la Stampa in prima pagina, poi ci sono gli approfondimenti internamente, ma insomma le percentuali di femminicidi rispetto al totale degli omicidi nel 2019 erano stati il 36%, nel 2020, adesso ad oggi insomma i dati sono il 46%, da appunto analizzare, poi se dipende tutto dal periodo del lockdown, però insomma al momento i dati sono questi. Se hai bevuto rischi lo stupro. In prima sulla Stampa si ricorda e si discute di una campagna del comune di Ferrara. Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro, scrive e riporta le parole del comune di Ferrara Michela Marzano, cioè scritta in rosa su un post pubblicato su Facebook e Instagram dal comune di Ferrara, la frase avrebbe come scopo quello di lanciare una campagna social contro le violenze nei confronti delle donne. Una nobile iniziativa, certo, ma come si fa a perseguire con chiarezza e forza l'obiettivo di contrastare le violenze di genere con messaggi di questo tipo? La questione poi viene affrontata internamente, pagina 13, in una pagina che completamente riporta la questione da un punto di vista della cronaca e del commento di Michela Marzano. Sulla Stampa segnalo anche il boom di contagi e l'appello chiudete Madrid, il mondo rischia 2 milioni di morti, così riassume un po' tutte le questioni relative all'epidemia Covid in Europa. Il governo spagnolo chiede il confinamento parziale della capitale, ormai fuori controllo, ma la regione di Madrid dice no. Quindi c'è un contrasto tra il ministro della sanità Salvador Illa, che chiede appunto la chiusura, non ci sono scorciatoie, e la regione che non ci sta ed estende le aree a rischio, evita di estendere i divieti però in tutta la città, col risultato che ci sono quartieri in cui si può uscire tranquillamente, cenare fino all'1 di notte, scrive Francesco Olivo, e altri in cui alle 22 è tutto chiuso e le autorità proibiscono gli spostamenti non necessari. Misure difficili da far digerire ai cittadini e soprattutto complicate da fare rispettare. Su questo non c'è alcun dubbio. Andiamo al Messaggero, due tamponi per tornare a scuola, anche questa è la notizia scelta per l'apertura del Messaggero, che però poi dopo nella fotonotizia ci porta nello spazio, una fotografia di Samantha Cristoforetti. E ricorda, Luca Parmitano e Astro Samantha sono in pole, base spaziale e astronauti, l'Italia sulla Luna con la NASA. Quindi guarda allo spazio il Messaggero dalla sua prima pagina, dove ancora leggiamo: banche, la mina sui bilanci, 300 miliardi di crediti dubbi. Banca Italia dice a rischio un quarto del portafoglio del settore. Vi leggo giusto l'incipit: l'ultimo dato fornito da Banca Italia è allarmante, sono arrivate a superare quota 2,9 milioni le domande complessive di adesione alle moratorie su prestiti presentate alle banche grazie ai decreti Cura Italia e liquidità. Si parla di un valore di circa 323 miliardi che secondo gli analisti rappresenta circa un quarto del portafoglio crediti dell'intero sistema bancario. Circa due terzi di questi crediti sono verso le imprese, sintomo dell'emergenza Covid. Una pausa per il traffico e torniamo tra pochissimo sulle pagine del giornale. In primo piano. Dicevo, il giornale, l'apertura: sospesi gli aiuti, più contagi, meno soldi, fondi statali in ritardo, casse vuote, 400.000 artigiani restano senza cassa integrazione, è l'ennesimo pasticcio del governo. E poi aggiunge, si legge ancora, e Conte nasconde il piano sanitario sul MES. Varie questioni vengono riassunte in questo titolo di apertura. Da maggio le casse degli artigiani non sono più in grado di erogare prestazioni, gli imprenditori hanno fatto il possibile per aiutare i propri collaboratori, ma adesso non ce la fanno più, sono diventati insostenibili dunque i ritardi con cui lo Stato trasferisce le risorse al fondo che le deve distribuire. Questo è l'allarme, scrive il giornale, lanciato da CNA e Confartigianato. Intanto il piano sulla salute del ministro Roberto Speranza, che prevede il MES, resta ancora in un cassetto, l'ha deciso Giuseppe Conte. Centropagina: gli stranieri non sanno l'italiano, ma per la sinistra dirlo è razzista. La bufera, ne abbiamo parlato anche nei nostri giornali radio, è quella sul libro di seconda elementare, in cui c'è una vignetta con un bambino che in italiano stentato dice io vuole imparare italiano bene. E poi ecco, il giornale ci porta la questione Suarez, che è stata trascurata oggi su molti altri quotidiani, almeno sulla prima pagina di molti altri quotidiani. Caso Suarez, stop all'indagine e rigore per la Juve, così scrive Enrico Lagattolla. Dimenticate tutto, dimenticate Mani Pulite, anni e anni di verbali, quintali di inchiostro e tonnellate di giornali. Scordatevi Calciopoli, il Bunga Bunga. Poi fate che non abbiamo una banca, dite addio ai furbetti del quartierino, rinunciate a malincuore all'indelebile Lanzichenecco. Eccetera, eccetera. Mandate in pensione generazioni di cronisti, basta così, vado veloce verso... Così, per darvi qualche spunto, perché se fosse valsa allora la Lex Cantonis di oggi, un'indagine ferma a tempo indeterminato per violazione del segreto istruttorio, penseremmo di aver vissuto in Norvegia e non in Italia, magari meglio, sicuramente più noioso. E allora ecco la Juventus, laddove non arrivano quasi 30 anni fa nemmeno gli avvisi di garanzia a mezzo stampo del pool milanese, di cui Raffaele Cantone si candida a raccogliere l'eredità di superstar in toga, perché va bene aprire fascicoli per fughe di notizie, pratica ampiamente coltivata negli uffici di procura, almeno quanto quella di dimenticarli nei cassetti abbastanza per renderli inoffensivi, ma bloccare un'inchiesta ad libitum sa di colpo di teatro, di ego ipertrofico, di un gesto un po' dada che ha poco a che fare con la tutela del procedimento penale e un po' più almeno come possibile conseguenza con l'irragionevole durata dello stesso. E poi dai, così il retropensiero diventa un'irresistibile tentazione. Quante volte si è letto di un'indagine per corruzione stoppata in questo modo? Sembra di sentirli, bande di maligni, fuga di notizia, rigore per la Juve. Così Enrico Lagattolla sul giornale. La Nazione, quotidiano nazionale, ma ho scelto La Nazione perché al di là del titolo di apertura, a scuola solo con certificato e tampone, la circolare del Ministero, le nuove regole per rientrare dopo 2 giorni d'assenza, dicevo, oltre a questo c'è un approfondimento dalla città di Firenze sulla crisi del centro storico, commercio, emorragia senza fine. Dal caro affitti alla carenza di credito, così i negozi finiscono nella morsa. La chiusura dello storico Caffè San Marco è solo l'ennesima di una lunga serie. Le categorie dicono servono riforme strutturali anche degli ammortizzatori sociali. Ne scrive Rossella Conte, un'altra attività che chiude, salute, se ne va portandosi via 150 anni di storia. Con il Gran Caffè San Marco, il locale più antico della città dopo Gili, Firenze, il 30 settembre si prepara a perdere un altro pezzo di identità. E ci sono appunto poi una serie di altri dettagli sulla situazione, si parla anche di agonia Cavour con un'intervista a Laura Dreoni, presidente del centro commerciale via Cavour. La crisi di Firenze, che sarà probabilmente simile alla crisi di molte altre città, ma che comunque viene approfondita, ricordo, su La Nazione di oggi. Il Manifesto, il governo blocca la mare Ionio, si parla qui esplicitamente di guerra alle ONG, il governo ferma anche Mediterranea. Negato l'imbarco ai tecnici per il soccorso in mare, stop alla missione. Il governo sta provando a bloccare anche Mediterranea, mentre i preparativi per la partenza del rimorchiatore Mare Ionio volgevano al termine. La capitaneria di porto di Pozzallo ha infatti negato l'autorizzazione all'imbarco di 2 tecnici, Fabrizio Gatti e Jason Apostopoulos, un medico e un esperto in attività di monitoraggio. Nel documento firmato dal comandante della Guardia Costiera Donato Zito si legge: trattasi di 2 profili che non hanno attinenza con la tipologia di servizio svolto dal rimorchiatore. Questo è il tema portante, al di là della manifestazione che si ricorda oggi nella fotonotizia degli studenti a Roma, manifestazione di protesta che si chiama Priorità alla scuola. Dicevo, il tema migranti è il tema di apertura del Manifesto e torna anche sulla Verità, con una lettura completamente diversa però. Torna l'invasione, a processo chi la combatte. Il governo è pronto a cancellare i decreti sicurezza, intanto Salvini va alla sbarra Catania e anche a Palermo. L'apertura della Verità però è dedicata al Vaticano, il titolone almeno a tutta pagina: sottratto al Vaticano 500 milioni, i soldi dell'obolo di San Pietro e dell'ex 8 per 1000 sarebbero stati dirottati per anni per fini privati. Un collaboratore dell'alto prelato, ingenti somme all'estero ai fratelli. Con le offerte per i poveri si producevano la birra o si finanziavano film. Francesco è furioso con l'uomo che per anni è stato la sua ombra e lui si difende: tutto surreale. Spero che il Papa non sia stato manipolato. Andiamo ad Avvenire, dove questa specifica questione non è in risalto sulla prima pagina, ma c'è il ben vivere dell'Italia, seconda edizione della ricerca che valuta il paese oltre la dittatura del PIL per individuare gli indicatori di una buona società. La nuova classifica di Avvenire sulla qualità della vita nelle province, trionfa ancora il Nord-Est, rilevata anche la generatività, l'impatto positivo delle nostre scelte sui territori. Il Sud resta in ritardo. Ora, se ben ricordo, comunque sono risultati assai simili a quelli relativi al PIL. Comunque, qui i parametri presi in considerazione sono relativi a 10 domini, leggiamo: demografia e famiglia, salute, impegno civile, ambiente, turismo e cultura, servizio alla persona, legalità e sicurezza, lavoro, inclusione economica, capitale umano, accoglienza. E questo misura, secondo Avvenire, il ben vivere in un territorio non solo dal punto di vista della ricchezza economica, ma secondo gli indicatori del benessere equo e sostenibile, il BES, gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'ONU, che sono, nell'acronimo forse li avete visti più volte, SDG, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, SDG, che valorizzano maggiormente le dimensioni sociali e ambientali della nostra vita. Questa ricerca è stata condotta dall'Università di Roma Tor Vergata e dalla LUMSA. per conto appunto di Avvenire. Allora, Libero, andiamo a Libero, aperta la caccia al leghista, titolo di apertura, PM scatenati, ma i reati non si trovano, a Milano e Pavia spiano gli SMS di Fontana, a Genova nel mirino i soldi donati ai terremotati dal Carroccio, a Palermo altro processo per Matteo che sbotta, trattato come un mafioso. Su Libero si gioca, mi auguro, si gioca ancora sulla questione del riscaldamento globale, perché si scrive: fa caldo, nevica in Piemonte e a Bergamo. Gli ambientalisti in piazza per il clima, freddo, 1000 scienziati di tutto il mondo smentiscono il catastrofismo. E si torna un conto la questione degli scienziati che smentiscono, che si può approfondire a pagina 7 avendone il desiderio. Un conto è il riscaldamento globale, ci tengo a sottolinearlo, c'è cioè l'aumento della temperatura media globale, e il meteo locale delle Alpi o di una città. Andiamo al Fatto Quotidiano per leggerne almeno i titoli. Siamo circondati, gli errori degli altri. Covid-2, la vendetta, contagi in aumento anche in Italia. La rivista Lancet critica la Spagna e la Gran Bretagna per non avere indicato chiare restrizioni pubbliche e sbagliato i tracciamenti. Così la curva si è rialzata e c'è caos anche in Francia. Questioni che ben conosciamo. Infine, Movimento 5 Stelle, la crisi era inevitabile, basta capi, guida condivisa, così il presidente della Camera al Fatto sul futuro dei 5 Stelle. E con questo richiamo alla crisi dei 5 Stelle, l'intervista che appunto potrete leggere al presidente della Camera, ci salutiamo, ci ritroviamo alle 8.30 con Si può fare, adesso c'è GR24. Ora! È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.